scogliar trova il rinchiuso. Vittio, ma prebarbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito, guardo, cerco in ogni sito, ed alzando pian pianino il tappeto a tavolino, vedo il paggio. Cosa peggio? Ma meglio ancora. Onestissima signora, ma da tempo ti peggio. Non capisco come va. Tu